l'abbia attaccata alla radio. Minchia. Cioè, allucinante, Antone. Agenzia c'è Antonio Bombo, quando li fa vedendo in due. E già ci credo. Sei un punto buono a me. Quindi, cosa ci vuoi fare? Veramente, non sento offesa per nessuno, ma Antonio è fendi strike. Vabbè, sono contento, dai, meglio così a tu. Stai uscendo veramente molto, molto bene. Riprendi, Carlo. Sì, anche qua arriva forte. Infatti lui mi chiede sempre come sto arrivando. E fondo scala qua è a bomba. Antonio, io lo sento dappertutto. Mamma mia, io sono lontano, mi ragazzi. Cioè, sono 4 km da Sassari. E ha un segnalone allucinante. Allucinante. Sì, è vero. Antonio, cosa gli hai fatto a quella radio? Io non il gioco io. Ciappa. E che si attacco a Gigi, vedi? Tanto è, perché come ha detto Claudio, in effetti tutto quello che hai sulla radio lo mandi subito all'antenna. Io ne ho più di 20 di cavo qua. E Claudio già lo sa già. Com'è la situazione? Già l'ha visto. Io praticamente ho l'antenna sopra la mia testa, capito? Passa il cavo e basta. Buono, buono. Così già va bene, capito? Antenna vicina alla radio è la cosa migliore. Capa, non so pensare ad attacco il bambino, tante ci vuole. Antone, hai visto? Antonio è una bomba. Sì, lo so che è una bomba, ma ti credo non lo sappia. E c'è bene Emilia dove? Anch'io quando abitavo a Centro Studio ci vuole bene lo stesso, la cosa Vittorio Emanuele. Era un tipo micidiale dove ero io. Ma evidentemente Antonio è anche ben aperto dove ha l'antenna, capito? Perché io lo sento dappertutto, lo sento anche tornando da lavoro, lo sento quando sono al lavoro, uscendo dai parcheggi. Insomma, è una costante. Come ha detto prima Natalino, il lavoro nobilita l'uomo. E lo rende simile alla bestia. Gappa! Sentito, Antu. Già ho sentito, già. Uiaia, va benissimo. Se mi date 5 minuti chiudo questo apparecchietto che ho aperto e poi sono di nuovo qua, già sono in ascolto, però vai avanti, Antu. Nobilita la pirivella. Beh, Luca. Sì, dai, sono andato a farmi la doccia, Antu. Cava, mi fiago in vava. Mi un viago di pirivella. Che gentaglia che c'è in questo canale. Cari, che è avanti? Mi ascolto, dai, saluto a tutti i circolari. Benito. Dai, vai, vieni. Se no ti faccio parlare con Muro. Dai, tu sì che mi calmi, sì, buonasera, saluti. Saluti da condizioni precarie, volantennino. Salutoni di nuovo, circolare a tutti. E buon anno. Già ti ascolto, un po' bassino, veniva, ti ascolto. Avanti, Antonio. Cappa, salutoni Benito. Ciao, oh, Benito, ben sentito per la primera. C'è qualcun altro? Di nuovo salutoni a tutti. Mi ha sembrato sentire anche a Claudio. Benito è il grande pufo della frequenza. Ciao, Benito, auguri anche a te. Ti mando il messaggio, dico che potevano dare un negozio dove lavora lui e andiamo a coprire pure. Vale, se tu vuoi fare questi giorni che sono in studio, tu rientri a lavorare, poi basta neanche d'ora. Ma già lo chiamo, domani lo chiamo, capito? E dico di portarmelo di lì, poi già ci andiamo assieme e lo recuperiamo direttamente da lì, e se no ne capiamo piedi, capito? Stai a casa a lui da una parte all'altra, non so se magari se ne c'è quella con la ragazza, quindi gli tocchiamo, gli dico di portarlo di lì e poi da lì andiamo noi a recuperarlo. Figlia, muoviti prima che lo perdiamo, e non lo voglio perdere, lo sai. E se per questo non lo voglio perdere manco io, non ho già compreso, è una battuta, sia, capito? Rebre. È tuo, non è di nessun altro, quindi. Andiamo assieme direttamente da lui e lo prendiamo da lui. Io lo avviso e poi io avviso a te. Capito? Devo programmarmi adesso un telefono nuovo, perché il mio è andato a Giuseppe De Vicino, l'ho regalato, quindi c'ha tutti i segnali di così WhatsApp, ho preso e poi ho dovuto cancellarli. Adesso appena busco a lui, ti chiamo, non c'è problema. Scusate per il ping pong, a lei ce l'ha sempre il mio numero di telefono, se lo do? Boh, vediamo se ce l'ho nell'altro LG, perché ne ho due, già lo sai. E devo controllare, capito? Anche perché quello nell'altro cazzo che ho preso nuovo un casino, mi infila e metteci i nomi eccetera eccetera, quindi devo controllare. Già mi sono fatto le fotografie dei numeri che avevo prima. Speriamo di trovare anche il tuo. Adesso già me lo faccio dare, già non è quello il problema. Allora prendi penna e segna. Ah, sta che piglio la penna. Ah, te lo mando io, là, non era le frequenze, bene. Non ho problemi qua, se mi metto la famiglia da seduto, lì, guarda. Vabbè, se voglio lo passo io su WhatsApp, non c'è problema. Passaglielo allora, dai. Tutto buco. Eia, aspetta che ti cerco su WhatsApp se ci sei qui tutto qui. Con tutti e due i telefoni che c'è un casino, ma se non che... Allora... Vediamo un pochettino... WhatsApp... Leoncino, Giovanna, Francesca, c'è tutto da dire, Scunzio, Marino, Pietro, Kawasaki, Carlo, Natalino, Stefano, Giampiero, Simona, no, non ce l'ho, Luca, non ce l'ho quello tuo, di qua. Ascolta, fammi te mettere lo squillo qua nelle su 210 340 92 93 210, vieni, solo quello fammi solo mettere lo squillo e basta, poi già me lo metto io il numero tuo su WhatsApp. Benissimo. Allora. Buonasera. Buonasera Tino. Ciao Tino. E allora? Vieni, 2-2-1 finale. Eia, ciao Tino. Se provo a te, sì, ok, da. Ciao, bene, buon anno a tutti. Buon anno anche a te, avanti Tino. Avanti Antonio. Aspetta un attimo che sono al telefono. Buonasera Tino. Ciao Antonio, ma perché questa radio? Come questa radio? Va bene. Mi sembra normale a me, senza amplificazione, comunque. Normale. Senza amplificazione? E non è come quello di prima. No. Non andrà bene. Sì, cioè come cosa stai utilizzando? Hai una leggera amplificazione sotto, una specie di quasi di un fischio, piccolino piccolino, quasi impercettibile, però già si sente. Rugoso, ragazzi, anche se è lontano, alimentatori. Che cosa ti? Ciao cra. Ma lo senti a Antonio? Certo non lo sento Antonio. Facciamo se vogliamo leggere Antonello. Lascia perdere la sua popolazione. La radio sotto è una regione del Nesco, se ascolti bene. Tu, prova. Ah, un goccio, Amarazzucci, come ti si chiama? No, io non sento niente, ti. Lascia la portata in sì, tanto. Intendi che l'alimentatore? No, tu stai perdendo le orecchie, che non ho ventola, si sente una ventolina, ma non è Nesco. Va bene gatto, va bene così. Ma perché non lo senti bene tu di radio? Io lo sento benissimo. La radio è bella, forte, è squillante, ma non è amplificata come dovrebbe essere. Ma senza... E allora un altro mezzo giro, tu. Come te l'ho regolata io stamattina? Era così, l'hai detta. Ma vai da vedere, ma... Più forte, a quanto ce l'hai? Un pochettino di più? Molto di più. Già andava bene, dai, cosa, ma io so che si intende la ventola, se non raffreddeggia si brucia, anche se è lontano, però un pochino si sente. Io ti racconto, io stamattina sono andato perché c'era un problema al microfono, e lui mi era molto lontano dalla radio, non lo so, io... Diretto perché non è la solita radio, poi fate bubici, come suol dire. Benito, non è la solita radio, cosetti, non capiscono. Un attimo che sono al telefono. Cosa sta usando lui? Sempre la solita? Io? Allora è così. Lo sento sempre bene, non lo so. Un attimo che sono al telefono. Io? Bene. E io? Vabbè. E io sono qua. Devo fare molto per sentire. Ah, problemi? Sì, un attimino sono. Ho attaccato l'altro e mi andavo nei numeri che accendevano e si spegnevano giusto da 2 minuti. E sto usando 140. Ma quello è 430? Sì, Atla. E che rifiuto ti sto facendo? Come accendo quello, e come quando vai e c'è l'antenna a massa? Nel 430? Sì, ma non è l'antenna, ma è la radio. La radio sta facendo scendere il codice, abbasso di potenza e torna tutto uguale. È la radio, la radio. È la radio perché magari non riesci a accordarla, capito? No, non è l'accordatore, non è la radio proprio. Ma senza antenna non riesci a accordarla e quando riesce va a spegnersi. Lui è strano. Si è detto anche, si è abbasso il vate, va. Non so. Sono un problema di antenna allora. Non so, va bene. Ma beh, tu sì. No, io non riesco a capirti. Vedete che la radio non è l'antenna. La radio è, c'è qualcosa nella radio, scusa, se con la stessa antenna il 140 va bene, oggi compresa che non andrà più a 330, scusami. A te non lo sento più, c'è Frido, segnale 1, radio da schifo. Sì, a parte che il segnale è molto più basso, qua è Santiago 7. Mentre invece con l'altro era un pochino più alto. Guarda adesso è una pastoria. Allora, se l'antenna voilà, la metto nell'altra radio, mi fa quel difetto. Se la metto nella 2001 non fa nessun difetto, sale di basso tutto quanto, ma se la metto nell'altra antenna mi fa quel difetto. Adesso c'ho il 140 sull'antenna grande e non fa nessun difetto, non ho capito perché. Ma quindi fa uno più uno, vuol dire che la radio non sta andando bene. Ma se ti ha detto che la mette in un'altra antenna e va bene. Ma io ho compreso nulla io. Vabbè, a fottutine lascia così, quando metterai l'antenna in alto, se ti è possibile, la provi bene. E tu cos'è quel rumore che hai lì? Il rugantino. Il? Avventurina, rugantino. Ah, ho capito. Non so, che rumore c'è una ventola. Eia. Già lo sento anche io. Beh, adesso è rimesso. Ehi, va bene, va bene. Anzi, ho un problema in ricezione, ma te l'avevo già detto anche. Problema in ricezione quando attacco, cioè quando attacco, sempre attaccato, con l'inverter e mi sale col REM. Quindi è un casino. Vabbè, ma già riesco a percepire anche segnali bassi, non bassissimi, ma sino ai 5-6 ci arrivo. Ehi, già va bene. Questa sta andando bene, sì? Sì, sì, quasi 9:20. No, la radio è sempre a posto, la mia. Andabex, ma tanto non lo sentivo tipo come microfono quasi normale, non la radio che conosciamo noi. Poi abbiamo provato stamattina quel microfono e andava bene, non so. Ma il processore attaccato ce l'aveva. E poi se dici... Lugariello, abbandonato, che? Okay. Io niente ho detto esci. Ha detto che doveva farsi la doccia. Ah, la lascia è andata. Vabbè. Comunque benino, non ci ho capito un accidente. C'hai due antenne, ne attacchi una lì, una là, una giù, compreso un altro, vabbè, comunque. Adesso stai arrivando bene. Ma anche io non avevo capito niente. figurati. Non saprei che dirvi. Signore, che guarda, adesso io voglio sono tanto senza accendere un'altra varia, aspetta mi andrei. Ma tu quando metti quella colata lo accordi? Con la T250. No, non la T250, 440, raccordatore suo. No, non so dov'è, già lo sai. Ah, non sai dov'è l'accordatore? No, aspetta un attimo, devo dire, il 430, non 440. Ah, tu mi parli del 440, scusa. No, tu l'hai detto. Io? Non so neanche che radio stai utilizzando. Adesso lo sai, hai il 140 adesso. Sì, e si conferma. Ecco, e l'altra radio che attacchi, che radio è? Il 430. Il 430 non so che dirti perché non l'ho mai avuto, quindi non so che difetto possa avere. Io parlavo del 440, se avevi il 440 e lo accordi magari potrebbe essere a causa dell'accordo che non gli dai. Del 430 ti può dire qualcosa di più Claudio, io non l'ho mai utilizzato, quindi. Vabbè, comunque l'antenna, se cambio l'antenna la mettiamo da una parte, il coso lo metto dall'altra, anche da con quella non vuole andare, con l'altra antenna va, con l'altra no. Ma io, la domanda che ti ho fatto io è, dal momento che tu cambi il radio, vai in accordo, l'accordi la radio? Sì, vabbè, prima di uscire l'accordo sempre, no, sia da una parte che dall'altra, se sto usando 140, la TV50 c'era una 140. Ecco, però e l'hai accordato, ok, se tu togli il PL dal 140 lo metti al 430, gli fai l'accordo? Devo attaccare anche le carrette. Capito dietro, perché se no non mi va in accordo con la T250, o se no devo prendere un altro accordatore e giocarmi così. E quello che volevo chiedere io è questo, bene, togli il 140 e metti il 430 e poi mi fai la stessa cosa che fai con il 140, poi mi dici se va bene o meno. Devo attaccare sia uno che l'altro e andare al 430, dal 140. E io? Però devi fare la stessa prova così con quell'antenna lì, non andare, non so cosa stai facendo, però io avrei fatto così. Sì, sì, sì, ma adesso lo faccio. Il 430, fuggilo, stacca l'antenna del 140 e metti l'antenna del 140 al 430. Quello vuole fare, io voglio capire quello. Se no, se fai altre cose, è come che provi due macchine uguali, però se una fa più dell'altra non sai quale fa più dell'altra, quindi fai come ti sto dicendo io. Lo faccio. Sì, devo attaccare, se non prende quel cavoletto. La prova. Devi prendere la T250 e passare al 430 con l'antenna del 140 e vediamo se la radio è l'antenna, no? E via, adesso ci provo. Perché devo mollare, è arrivata gente. Io ti dai, già sono qua, se entra venite a fare questa prova, vediamo. Vieni, sali a casa e tiro la pedisvella, lo zip, vedrai che arrivi meglio. Fatta della luce a due. A voglia, è veloce burro, è veloce, certo, fatto e cambiato. Bene, bene. Io per freddo non ce ne uccide. No, qua no, c'è la stufa accesa. Sta benissimo. Diciamo che si vuole lo si può stare anche a maniche accorte, ma meglio di no. No, anche qua sta bene. Io venire, faccia prova. Ciao Luca. Ciao Carlo, saluti, mi senti, sì? A voglia, sei sotto casa. Ho visto la tua antenna l'altro giorno che ero in via Marghinotti. Hai visto che bella dritta? E adesso vediamo, guarda. Se non vengono i muratori, siccome devono, a quanto pare devono fare le facciate nuove, e anche le tegole sicuramente devono cambiare, è un casino, perché se fanno quel lavoro lì è veramente un casino. Se devono lavorare sul tetto sì, a meno che non la levi e poi te la fai ripiazzare da loro, se mettono il ponteggio già è facile. Da loro? No, ma anche no. No, da loro nel senso che tu usufruisci del ponteggio. No, no, io c'ho la scala, no, non è un problema per salire. Il problema è che, vabbè, dovrei cambiare le staffe, quelle bisogna tagliarle e poi, vabbè, mi devo organizzare con Roberto. Andiamo a prendere il materiale, ha detto che poi mi aiuta lui a farle, poi già per quanto riguarda il montaggio già ci penso io. Ho beh, allora se non hai grosse difficoltà, sì. Quindi anche le staffe ti devi cambiare. Sì, perché quelle non mi piacciono. Se metto due staffe, come dice Roberto, non c'è bisogno manco di tiranti. Distanziate, una alla base, una più in alto. Poi devo cambiare anche il palo, e vabbè, adesso vediamo, là. Vediamo. Mi devo organizzare bene, bene. Tanto qua va buttata giù. Sicuramente rimarrà per un po' giù. La smonto tutta, ma la pulisco bene, poi la ripiazzo, la rivulcanizzo bene. Perché ho peccato, perché quell'antenna lì è nuova. Vista bella lucida pure. Io lo stesso ho fatto il tubo nuovo, la base l'ho messo da 50 e poi ci ho infilato dentro il 40 e l'altra sezione telescopica ancora più fina. L'ultimo tratto non l'ho messo su, praticamente dal tettuccio sono adesso più di 3 metri l'antenna, e ho messo quella nuova che mi ha dato Claudio e già sta andando bene. Sì, sei fortissimo qua. Sono giù, io ho un antenino sul terrazzo, non sono a casa, sono giù alla Latte Dolce. E adesso vediamo, speriamo che non mi dia problemi con l'antenna, magari nello smontare, ecco. Se no, no, 200 euro non ce li spendo, manco per sogno. Mi compro, vabbè, siamo lì comunque, 100, quanto costa? La Jägermeister, 130, 140. La Game Master l'ho vista, è intorno ai 156-160 adesso. Ah, adesso buono dunque la Game Master, sì. C'è il finocchio. Anche lì non è che può subire attendi bisanti. Certo che lì devono passare a fare, cioè, là così com'è adesso è un casino. Perché se fanno il tetto nuovo, io lascio quelle staffe lì, se fai il caso con le case antenna, loro danno chi forzo. Ma arricciani. Ma cosa, lascia le staffe tue e loro ci girano attorno, se no, se vuoi una Grand Prix te la regalo. No, sì, Grand Prix, no. Tu, con l'antenna che ha comprato Carlo, che gli ho fatto avere io, costa 20 euro in più della Game Master, lascia pigliare la Game Master, dai, retta un manco. Allora, che c'ho gente, io ho benedetto. Qua alternata va. Bene, con la radio c'ha problemi. Se hai fatto quello che hai fatto con la radio ha problemi. Adesso mi sei più alto, ma hai alternato e però vuoi accordare meglio la radio. E poi, come stai dicendo Claudio, secondo me ha problemi. Come va la radio, Beni? Ha problemi, se aumenti è un casino, mentre con 140 va bene. Ha problemi la radio. Cazzo Beni, ma la stessa antenna non la stavi usando con 140? Cioè fammi comprendere cosa hai fatto. Ti ha detto Pino, stacca l'antenna al 140, attaccala al 430 con la T250, hai fatto così. Scusate, c'è gente, sentiamo più tardi. Se hai fatto così, sì, Santiago 2, in Oghi, poco fa, Santiago 7, e radio non ne hai, e c'è l'alternata, c'è qualche problema nella radio, scusa. Qualche problema, io non la devo trattare. Cos'è? Potrebbe essere che non ha pericolato, non ha pericolato, non ha. Ma c'è l'alternata, più sollevi vatti più alternata c'hai. C'è un problema lì, c'è un problema, fatto vedere da me. Meglio di te. Io ho il 440, io sto andando col 440, col 430, ok? Questo è il 430, ce l'ho davanti, dimmi. Allora, dove c'è scritto Mickey Carrier? Il Carrier, quanto ce l'hai? Il 3 e mezzo, io il Carrier ce l'ho a 4, sto andando con 20 watt di portante, 40 modulati. Io ce l'ho a 4 il Carrier, il Michelin a quanto ce l'hai? Al centro, addirittura, al centro. Cazzo al centro? Al centro, non lo gioco io, a 5 l'hai, io lo faccio a 1 e mezzo ce l'ho. Dai, Ma non c'entra niente l'antenna, se col 140 di Santiago 7 è Radio Kenwood 5, la tua radio, questa perché non sta andando? E c'è l'alternata, c'è un problema. Beh, cazzo benissimo, uno più uno fa due, non è che uno va diventa quattro, Cioè, se la stessa antenna con 140 va bene, se il segnale 7 e radio super 5 Kenwood, qua c'hai il mic-in a metà e non stai spingendo nulla. C'è un numero di alternata allucinante. La potenza ce l'hai a 3, io ce l'ho a 4, quindi stai andando con 10 watt, io sto andando con 20, ma segnale è 2, il segnale è 2, mentre con l'altra era 7. E la radio non ce l'hai di radio, c'è un problema. Allora è così come ti dico io, quindi c'è un problema, bisogna vedere qual è il problema. Là, eccomi qua, sono rientrato. Poco fa era 8 qua, ma è 5 a malapena, no, ne hanno di nulla. Come hai fatto, no? Mi sei vendeggiato a dire che non ti sente di radio, non so, vabbè. Ok, dunque tu bene lo senti a Antonio? Oh, Antonio, c'è una radio che è strano, non è la sua solita radio. Non è la sua solita radio? E cosa va di strano? C'è una... parla tu. E cosa va di strano la radio? No, sembra citofonica la modulazione, non mi piace. Che dopo le cose giù? Che citofonica, d'accordo. Ma il processore è acceso e anche... Processore è a posto. Processore è a posto. Attacca le stacche, attacca e stacca, non si è mai si è inciurato. Non va adesso com'è. Per me va bene, io ti ascolto bene, non so. Io no. Cioè noi non lo ascolto bene, cioè non è la solita radio sua. Che microfono stai usando? 60. Cappa, sempre lo stesso. No, c'è qualcosa che non va allora. Qualcosa che non va, non so. Anche si cosa di tuttino. Prova a spostarti un po', Antu. Guarda a vedere adesso. Com'è? No, no. No, Antu, no. A me non piace. Cioè dovete uscire, lo dico come Claudio, però la spinta è così. Io ascolto fortissimo 9:20 radio 5, no, non noto nessuna differenza, no, non lo so. Io sì, non esce bene, cioè no, non è che non esce bene, non è la solita radio sua, c'ha questa, come ti faccio un esempio, come metti l'MB più 4, no? Quando ti fai la modifica, se non li metti il cortone esce un po', non dico barattolo, ma un po' nasina, là. Ma il Simone con lo strumento della radio, tu sta andando? A voglia, scende il gabbo. Io sento bene, non so già dirti. Non lo saccio. Vabbè. A quanto ce l'hai il Michelin, Anton? Un po' alto ce l'ho. Alto quanto? Dimmi, abbascia di abbaglia, 1, 2, 3, a quanto ce l'hai? A 5 quasi. A 5, mettilo a 4. Guarda a vedere ora, com'è? Così va meglio, secondo me. Forse era troppo alta per quello, Luca. Sì, ha migliorato, però non è la solita modulazione sua, cra. Questo cosa dite? Non posso dirgli sì. C'è qualcosa che non fa, boh. Prova a metterlo a 3, Anton. A 3. Guarda a vedere ora, com'è? Prova. 1, 2, 3, prova. A me non cambia niente, a 4, a 3 è sempre bella spinta, non so. Non so cosa dire e non so cosa fare. L'MC60 invece in che posizione è sopra? A 50 o a 500? A 50 sarà. È uguale, come deve andare. Mi porto la Rusi, mi porto. Così è. A 50. 50 ohm. A 50 ohm. Solleva le cazzo di microfono e fai quella leggetta, mandala avanti e indietro, cazzo. Che levetta? La levetta che c'è sotto il microfono. Claro, Antonio, è uscito sempre bene, sai, ogni tanto lo difettava col microfono. Tu non lo so, per me non sta uscendo bene. Io lo sto ricevendo col 430 e lo sento bene, non cosa devo dire, non so. Chi è che vuole entrare avanti? C'è qualcuno che vuole entrare a fondo scala qua. Fallo entrare se ti faccio la radio. Quando sono vicini sono tutti in voce, a buon arrivi in anno per la Landriga. Sì, hola, mi sto ascoltando io. Hola, 1, 2, 3, prova. Ma le appoggio. Vabbè, spostati al 20, vai. Spostati al 20 un attimo. Chiamare il 20, 27, 205, ti deve apparire. Non lo so, c'è qualcosa che non va. Lucariello! Chi è? L'amico tuo, come va Lucariello? Stai male, tutto a posto. Sai che sei capitanie che? Ciao Luca, buonasera. Chi c'è questa canetta? Attenzione, Franco Calimone, senti qua capitanie che? C'è Claudio, Antonio, mi... Adesso ti faccio un passaggio, tu ascolta Claudio, tanto non ho questo microfono. Tu senti Antonio come esce. Vai Antonio, fai una prova con Franco. Luca, guarda che si sono spostati sul 20. Ciao Claudio, Carlo, buonasera. Salve, buonasera e auguroni. Quanto ha cambiato da parte mia al 100%, a te in famiglia come desideri. Mi ascolti, sì? Sì, a fondo scala, radio 5, ottima. E tu oggi mi ascolti bene, non sono in macchina, eh? 9.30, Radio Super 5 è qua, la mia stazione, stai arrivando. Già andrà bene. Tutti furti, 7, tutti a fondo scala qua. Per me Antonio stava uscendo male, non era... classica radio, come se il microfono fosse vuoto dentro, mi esce un po' citofonica. Aspetta che provo l'altra radio, che mi ascolti a me. Che verde, ragazzi. Magari era troppo amplificato Antonio, basta abbassarlo e magari esce meglio. Il Typhoon, quello a 5 bande, come watt siamo intorno ai 12 watt circa, non so, vado bene, no? Oh, Carlo. Prova questa Luca, come mi ascolti? 1, 2, 3. A te benissimo, Fra. Registrato il break, avanti. Ehi, dai, buonasera a tutti. Voglio comprare una radio perché forse avevo la batteria 1 e uscivo male. Forse è preso che sia la batteria che non andava. Bene. La batteria 1 ce l'avevo invece che a 9. Vabbè, questa qui non è molto carica, è 8 e 9, ma va meglio di quella là, dai. K, dai, sono contento. Saluto tutti cordialmente e auguri a chi non li ho fatti. Ciao Gianni, buonasera. Rapporto a fondo schiena, sì. Radio Super 5 ultimo è buona, una bella modulazione. La batteria era partita fra. Questa era 1. Mai avuto la batteria così bassa, il MS si è scaricato. Ci scaricano subito. Oh Luca, vorrei che mi stavi dicendo, va bene questa? Allora già, a posto. Ehi Gianni, sono qua! Sono qua con lei, Renami, ti saluta. Ok, dai, saluta ma parte mia, tanti auguri fa. Grazie. Ciao Franco! Ciao Elena, buonasera. Che pensassi, comunque io gli ho mandati a Lucia. Non ho capito, già, ho già detto. Ho mandato gli auguri a Lucia. Grazie, è contraccambiato anche la parte sua. Saluta anche a me a Lucia, a parte mia, fra fargli gli auguri. Figlia, contraccambiato da parte sua anche la tua 50 in famiglia, come desideri, con buon anno. Thank you very good, very much. Gianni, quando è che ci possiamo sentire per quei famosi coperchi? Ci mettiamo d'accordo? Quando vuoi. Quando vuoi. Allora, facciamo una cosa. Se martedì... Abbiamo 25, no, mi lascia la macchina, mi faccio un salto io. Sì, vabbè, non c'è problema. K, vabbè, dai, comunque riprendete voi, io sono all'ascolto. Mi sembra che ci fosse anche, come si chiama? Ma non mi viene, quello nuovo. Carlo, avanti Carlo. Sera Gianni, auguroni, buon anno. Ma Carlo, scusa, ma ho avuto un lapsus, non riuscivo a ricordarmi il tuo nome. Sta arrivando abbastanza bene qua, provo a vedere quanto arrivi. Ah Gianni, ho messo l'antenna nuova e non è più quella di prima, è un'altra nuova questa. 6925 qua, mi dai un controllo di segnale anche a me per favore? E qua mi arrivi 9.50 radio 5. Cazzarola. Va bene allora. La recezione con l'antenna noi buccia l'arancia, siamo rientrati, avanti Anto, ciao Gianni. Ciao, era la batteria. Beh, qualcosa c'era già, ma tu già sai manovrare, avanti bombo. Ecco, buonasera Gianni. Ciao Antonio, ciao, mi sentito anche a te di nuovo, là. Ero un po' preoccupato per questo microfono, invece era la batteria scarica. Ha giunto che era la batteria da poco fa. Tanto raffreddato sì. Fogo bobo così sogo. Non lo so. Tu non me lo ascolti Antonio. Buonasera Claudio, buonasera Antonio. Vai Anto, fa un passaggio. 1, 2, 3, prova. Ma io l'ascolto un po' ribombante sì Anto. Cazzo, chi dice che è ribombante? Che dato dice che è cupo, che dato dice? Abbiamo fatto le prove sul 20, anche Gianfranco con lo strumento ha visto che la modulazione è sempre uguale. Io non vedo niente di cambiato, anzi lo sento molto più forte rispetto a prima. Vabbè, ciao Fra, buonasera. Allora, Claudio e Franco, stessa modulazione. Claudio, Franco, Antonio, stesse radio, stessi microfoni, come mai Antonio c'è diverso? Spiegamelo tu. Come fai a sapere che ci abbiamo tutte le radio uguali? Io sto usando un 430, lui sta usando un 440 e Franco sta usando il 680. Quante volte che avremmo tutte e tre la stessa radio? Vabbè, intendo dire la stessa marca, stesso microfono, dai. Più o meno escono tutte così. No, io non ho l'MC60, io sto usando l'MC50, che è un'altra cosa. Ognuno ha la sua modulazione, lui. Ogni radio ha la sua apparatura, non è perché sono Kenwood o siete convinti che tutti volete essere uguali a me. No, non è possibile. Se io uso il 430, il 140, il 757, tu non te ne accorgi, perché la mia modulazione è sempre quella e i microfoni sono sempre uguali. Se invece la usiamo gli altri te ne accorgi, capito? È così. Comunque per me ma tu non sta uscendo bene poi. Cioè, ho detto, non sta uscendo male, attenzione. Però non è la sua classica, c'è la solita modulazione, capito? Rimane un po' come ti ho spiegato prima, no? Sai, l'MB più 4, non lo voglio paragonare all'MB più 4, l'MC60, però sai, se tu non li metti il controllo, esce un po' citofonica la modulazione. Non lo so, io Antonio lo sento bene, Franco addirittura tocca rimbombante perché effettivamente così è molto più forte come radio, non lo so, prova a metterla a meno di 3 Anto, magari è troppo alta. Uia gazzo, guarda a vedere, aspetta, adesso un po' di meno, com'è? Io ti ascolto benissimo adesso. Io ti ascolto lo stesso, sempre bene, non so. Chiedi a Luca perché ti ascolta citofonico, già compreso. Alcune radio lo potrebbe fare. Modulatore lo fa chi ha compreso. Hai scherzo pure a me, ma non è niente, non c'è niente alla radio. Allora, il discorso è che se prima lo sentivo bene e oggi lo sento così, non lo so, non me lo sto inventando. Io lo sentivo sempre bene, tanto tra un po', verso le 8 e mezza arriverò a casa e vediamo un po', ma io lui vi ascolto bene, capito qua, come sempre, lui che c'è qualche problemino, non so, ma è cambiato il microfono, tanto è sempre lo stesso. Cos'è? Allora magari sei... vabbè, non possiamo paragonare la mia con le vostre radio, cioè, cazzo, per un avviso, comunque... Io ti ho sempre ascoltato bene, bello spinto, sentiva proprio come spinge quel tipo di radio con quel microfono. Non lo so, vabbè. Ma se tu hai spinto, allora tu devi, mi devi spiegare, Sì, perché tu sei partito, cazzo, stai uscendo male. Male non sta uscendo. Se poi mi dici che è una modulazione diversa, può darsi pure. Ma se tu hai più spinta, è perché adesso stai cambiando, stai dicendo che non è spinta come gli altri giorni. Se non vuoi più spinta, lui la può spingere, perché batte solo il Michigin e la spinge. Se vuoi la Michigin a tu, mettilo a mettere la Michigin. A voi Davide, come te, abba? No, non mi piace, no. Guarda, c'hai il microfono normale, Antu? È rotto. Vedi, sta anche fischiando adesso. Rimettila com'era, che è troppo alta, che sei mese vendisotto. Rimettila com'era, rimettila a 3 e lasciala stare a 3, perché io col K ti sento bene, Franco ti sente bene col K, Gianfranco ha detto ti sente bene con la radio professionale che c'ha, io per me va bene, poi non lo so. Guarda a vedere, ora va a andare bene, dai, già va bene. Lasciala stare così, va bene, per me va bene, Franco. Per me è lo stesso, 9.35, sì, radio 5 è perfetta adesso. Va bene Antonio. Gappa, Gianni, mi senti bene? Vabbè, io ti sento bene. Prova che Gianni si sente bene, non so che dirti. No, ma io l'ascolto bene qua adesso, perfetto. Vabbè, una bella moglie, io ho le cuffie, lo sto ascoltando in cuffia. Ehi, ehi, è che quella radio non è spinta, Luca, quella radio non è spinta... Come può essere questa che me l'ho fatta per me, quella di Franco che era la mia, me la sono fatta per me, quella di Giulio che era la mia e l'avevo fatta per me. Tutte le radio che senti erano le mie. Questa che sta usando Antonio non arriva da casa mia, capito? Quindi non è molto spinta, non è molto spinta. Ma per me va bene così. Quella è originale la radio, sicuramente, non è... Non c'è questo eccesso di coso, di LC tirato a manetta, come te ghiccia, come te ghiccia arriva Franco, come quella c'ha Giulio, come quella che c'ha, adesso non mi ricordo, ma sono tutte radio che sono passate in mano mia, capito? Quella è così, però la modulazione è molto bella, va molto bene. Comunque mi saluta Benito che non vuole rischiare, sembra che brucia rovini la radio. Niente, ho mandato un messaggio a Pomponio con il suo numero, ma non ha visualizzato. Capito lui cosa ti stavo dicendo? Che quella radio non gliel'ho venduta io a Antonio, capito? Quindi magari non è tirata, quindi non è la potenza che c'hanno quella che ho venduto io, come quella di Giulio, quella che c'ha Franco, questa che c'ho io, altre che ho dato, le ho tutte tirate io, quella invece è originale la radio, capito? Quindi non spinge molto, però va bene. Magari è la voce sua, magari c'ha, non lo so, magari un po' con naso chiuso, gli fa una voce lì, non lo so, cla. A voi vi ascolto benissimo, lo sai che claro che Franco arriva, ragazzi, arriva, vabbè, siamo vicini, arriva benissimo, un bel forte alla radio. Poi non so, non è che... Infatti, se, prima io pensavo che stava uscendo con un microfono normale, ecco perché gli ho detto, rimetti quello normale, cioè a provare quello normale. Invece no, era col 60. Vabbè, niente, se per lui sta uscendo bene, non sta uscendo male, però non è la solita radio sua. Vabbè, tu ti sei accorto che è così, io non mi sono accorto di niente, io sto ricevendo col 430, col 140, ho provato anche col 757 e sta sfiggendo abbastanza, però ti ripeto, non è una radio che è tirata quella originale, capito? Quindi se magari le fai qualche modifica, però perché toccarla? Sta andando bene, va bene così. Allora tanto riprendi. Buono, insomma, magari sarà raffreddato, che ne so. Antonio, dimmi tu di sì. Ehi, so che non vi. Ehi, gappa, riprendi e fai girare, c'è anche Carlo. Avanti, Carlo! Per me già vai bene, Antonio, io ti sento bene come radio. Non lo so, Luca, forse, non so, però io lo sento lo stesso bene, sempre lo stesso timbro di voce. Forse prima era troppo amplificato, poi come l'ha abbassato a 4, a 3, era perfetto. Allora non è che, cioè, non è che sta uscendo male, si capisce benissimo, però non è la radio sua, capito? Lo sento così, poi boh, magari sarà un po' raffreddato, cosa ne so, non c'ha il vocione mi, come al solito. Quando si riprenderà, siccome lui ci ha visto dormire senza mutande, ecco perché è così. Zitto vai Antonio, mettiti le mutande, se no ti raffreddi. È un macello, a meno la notte bisogna toglierle, a far respirare un po'. Fa respirare il gabbiano. Che c'è a far respirare il gabbiano? Gabba, è un gabbrimo lucernaio, entra un po' che è duraria. Ma che c'è sempre aperto c'è lucernaio? Come? Perché è sempre aperto quel lucernaio? L'ho aperto poco io. Ah, gabbagabba. Se no canto guzzi, no, che non mi vuoi sciamme. Ah, così è. Ah, oh, vabbè, ho visto una bella casettina. Piacevole, accogliente, va bene. Brecco, bene alle 10. Avanti, ero per fiaggo il guru. Avanti il break. Ciao Antonio, buonasera. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Lucrofetta, buona mattina, ben ascoltato. Come lo senti Antonio Bombola? Vieni avanti Anto. 1,3 prova, 9,60 sì, no, qui, la mappa di Nibaria. Adesso da un po' che non sentivo, non mi sembra che ci siano grandi differenze rispetto a prima, boh, non lo so. Mi sembra che sia il solito, dai. Va bene, ci basta così, va bene. Avanti, Carletto. Va bene Antonio, lasciatelo tranquillo. Non lo scombussolate troppo, cioè, va bene così. Scappa, cavolo, il segnale più forte che ho è Gianni Lucrofetta. Qua arriva a fondo scala, qua la stazione. Antonio, a Giomai l'antenne si tocca, quindi cosa vuoi? Tu qua c'è il più forte di tutti. Non c'ho nessun altro, manco Natalino mi arriva così forte. Che Natalino è lì, però tu proprio vai sul 60. Bene, ricambio gli auguri a tutta la ruota, dai. O sì, toccarlo, avanti, buonasera. Buonasera Gianni. Avanti a chi tocca, Claudio, avanti. Ciao Brofè. Ciao Luca, buonasera. Good year anche a te. Good year, e non so, ma una gomma, una gomma è fasciata. Gappa granta, oiaia, e vabbè, dai, già va bene, tutti spinti siete stasera, boh, questo è un panettone, che era da finire nelle chiappe, state spingendo. Gappa, a me non mi fa arrabbiare, se no attendo il bambino. Tu fa una cosa, fa un passaggio con l'altro baracchino, ce l'hai? Sì che ce l'ho, hai zitta. 2 secondi, devo attendirlo. Ma sei sicuro che vi ha attaccato il processore di chissà radio? No, sono dei dubbi, guarda, allucinante. Grazie a lui, adesso mi fa dire, ti ho detto che non è con la radio, ce l'ho io a casa sua stamattina. Anche a me mi hanno detto che non è spinta molto la mia modulazione. È normale, non è stata toccata. Questa che tu senti, questa, ti ho detto, quella di Franco, quella di Giulio, quella che aveva Rabbino, quella che aveva Natalino, tutte quelle che tu hai sentito sono passate in mano mia e sono toccate l'LC, quella è normale la radio, perché sono andata apposta a controllargliela. Boh, non so cosa dirti, Cla, non so cosa dirti. Io non ripeto, non è che lo sento male, però non è lui, non è spinta, Cla. C'è qualcosa che è raffreddato lui, non lo so, boh, non è che mi intendi di cose, no. Vabbè, se la tiene così, non è che mi cambia la vita a me. Ma se tu dici che lui che esce male, lui si preoccupa, non sta uscendo male, non è spinta come la nostra, ma è normale perché quella radio non è stata mai toccata. Non so di venire a comprare la Visa Radio, non te lo dico qua, non è toccata, è originale. Vabbè, lasciamola così, tanto avete vinto voi, io ho perso, siete 5 contro di me, 2 contro 1, vabbè, non è un problema, non so, cioè, magari anche lui è raffreddato un po', perché ha detto che è raffreddato, non ripasserà, Lui c'ha la mania di parlare a fianco al microfono, deve parlare più al centro del microfono, forse anche quello. Però ti ripeto, non abbiamo vinto nessuno, io ti dico come la penso. È normale quella radio, non è turbo, a mio comprendi, non è turbo. Sinistra radio la docco io, ti posso dare la voce, intendi come esce a casa mia. Hola, chicos, volevo sentire il baracchino, eccolo qua. E vedi, no vabbè, la radio non è che sia uguale. Io no, per sentire se magari sei un po' raffreddato, dai, come se stanotte o avanti di notte hai dormito senza mutande e via due colpi d'aria. E come si chiama questa cosa? Oh, comunque ho visto un Colt originale, 2000 euro, ma te rendi conto, 2000 euro. Ah, c'è tanto roba, c'è tanto necco turbo, fasciutti tu. Ma so cosa, a fasciutti, il garage c'è stato necco turbo, c'ho io mi. E ci canto 4.30. Bello, bello, no. Una bomba, una bomba. Allora io do una bomba. Cazzo. Cioè voi rubate metro in scala 10, cazzo di mamma mi faccia rubate metro. Ho messo in scala 100, 80 watt, 80, pieni. Aumentato il segnale. 9.25 sì, aumentato, la mazza di nevaria. Sembra questa cosa. Oh, bianco per me, riprendi, vitonce, sopra offerta. Eccomi. Antonio, si apre le mani in pasta. Oh, yeah. Bene, adesso ha ciambato un motocarro e quindi sente il bip. Quasi 9 più 20 liscio arriva, una cosa allucinante. Lo stesso segnale di genere doppio rum liscio. Quando attacca no, non lo so chi arriva più forte, non li ho mai visti. Gianni, ancora sì. Ah, è vero che doveva andare a accompagnare, non so, vabbè. Avanti Carlo. Sì, già sono qua io. Io stavo finendo di aggiustare quel power bank e ho visto che sta caricando adesso. Ho disaldato la porticina USB e gli hanno messo una nuova che ce l'avevo e adesso sta caricando, quindi era quella. Ah, ho capito, va bene. Anch'io ero con le mani di Antonio facendo tutto, adesso ho chiuso con la cacciavitino, ho messo in carica e sta andando. Eia, gappa di gappa, va bene. Questo smitter Carlo è tutto a fondo lo stesso. Questo qua arriva fino a 9.30, arriva. Già lo credo. C'è rimasto altro nessuno? Luca, Gianni, c'era Antonello, non so se ci sia ancora. Dove sei finito? E chi? Pomponio, dove sei finito? Pomponio c'è anche, Antonè. Sicuramente siamo andato a cucinare, può essere. Non lo so. Infatti Luca prima gli aveva mandato anche un messaggio, dice che non l'ha visualizzato. Sarà andato a messa una birretta, sicuramente. Più che sicuro mio, chi è sicuro. Antonello, batti un colpo se ci sei. Vedi che già c'è, ha battuto un colpo. Ma non so cos'era quello, la mappa di varia azzato, io ho messo capitando dallo Smithers. Buone. Un bel incandescente, Oh, un bel incandescente. Già funziona bene. Ma esci bene con tutte e due le radio, non ti preoccupare, già vai bene. E poi domani ritirerò l'altra. Ah, quella spinge di più di questa. L'87. E cosa c'aveva? Ma se ne compreso nulla. Gobbo. Cappa, Gesù Cristo mio. Beh, si attacca un pochino il Galaxy a farlo andare, va. Aspetta che cambio l'antenna, riprendi Carlo. Via, sì, sì. Tutta serata di prove, quella di oggi, state cambiando, eccetera. Io c'ho solo questa, c'ho poco da cambiare. L'unica cosa che posso cambiare è l'antenna, ma non sarà per questi giorni. Non hai le tue armi da guerra? No, avevo smantellato tutto, tanto io ero roba di almeno 15 anni che non avevo più radio, quello che avevo in passato l'avevo tutto dato via, e avevo stazione base, eccetera, degli Alan avevo modificati, avevo di tutto e non mi era rimasto più niente, poi mi è venuta di nuovo la fregola e eccomi qua, però diciamo che già sta andando questa piccola stazione che ho realizzato. E adesso la lascio così, già ottengo buoni risultati, dai. Gappa, gappa. Fai bene, fai bene. Già, cioè, già va bene. Ehi, anche perché un po', anche un po' così, capito? Quando migliora il tempo già mi sistemo bene l'antenna in macchina pure, perché con la base magnetica non rende bene, la massa diciamo non è al massimo, invece prestazioni buone si ottengono se piazzata sulla capotta che fa bene massa e metto una buona basetta, e così anche dalla macchina dovrei riuscire a modulare e migliorare meglio, dai. Ok, buonasera, Gian Maria, sono andato incontro alla radio. Qua sei forte, Gian Maria. Radio 5, sì, quasi. In questo momento sei quasi 9.30 a Radio 5. Ok, allora c'è un amico. Come ti arriva Gian Maria? Un altro passaggio che controllo. Mi sento sempre modulato, dammi un controllo, dai, per favore. Ora da me all'Unesole sta arrivando Santiago 9 Radio 5, Gio Maria. Ok, grazie. Dai, ho provato a vedere un po' se ci va bene. Ok, grazie a tu. Ok, riprendi e fai girare, vai. Passo su 23. Comunque qua sono 9.25, così va bene, siamo vicini qua alla veloce, non è un problema. Ok, grazie a tu. Vai l'altro amico. Già stai facendo bene, Gio Marì. Ok, l'altro, vabbè, grazie, ciao. Carlo, guarda il telefono. Gappa. Chi c'era? Luca mi pare, non me la metto più. Sì, Natali, che ce l'ho nell'altra stanza, aspetta che guardo. Spide, questa è tutta la strumentazione tua. Spide, già l'ho visualizzato, Natali. Anda bene, Meda. Hola, chicos. Oh, Natali, l'antenna, quando pensi di riuscire, a parte le rotture di scatole del tuo coinquilino? Non lo so, quando ci riuscirò... Allora potrò fare quello che voglio. Adesso purtroppo ho questa l'antenna, sto parlando col Superstar, con quello bianco. Ho capito. Bene mera. Sarà una sfida aperta. Ehi, pensa che non c'è il bindeggio, a chi su? No, sarà una sfida aperta tra me e te. Ora. Ehi, ti dico, oggi di sfida, a me non me ne affutti nulla, mi interessa di piazzare l'antenna per poter uscire come si deve, e quando piove non devo rimanere zitto, perché giustamente salgono troppo le stazionari. Se mi si viene a leva che antenna, lo devo che ti dica, se no vi pagate lì, ci avete pagato un bigito, ci rinaga di peso. Vabbè, ci vuole solo un po' di pazienza, Natali. E poi quando la perdo, io già lo so come ti gioco, quando voglio la pazienza, a voi che non ne posso più, ecco più, tutto un coipo. Cappa, cosa vuoi va? Gente ignorante, eh? Ma con buco visto. Infatti, se no... se non riesco a togliere i piedi, vediamo il modo di farlo fuggire da Sassari. Cicco, come mi ascolti col Saturnecco? Ah, state varia, c'è vostro. Questa scherzeggia, 80 watt sto dando. 80 watt. Andate. Ottimo e abbondante, qua. Va bene, no? Anche come radio, questo è il gas Saturn, ecco turbo. Cosa gli hai fatto, la turbina? Io ci devo un 4 watt, dimmi tu. Tu devi uscire con 4 watt? È così, Devo uscire con 4 watt, allora... No, questo sta andando alla grande.